musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando quando volare che sarà, canta insieme a me. Hey, hey. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io t'amo, t'amo quando calienta il sol qui sulla spiaggia. Vedo il tuo volto vibrar accanto a me. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore. Niente da domani si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà. Yeah.